sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Ancora paura di recessione, il petrolio scende sotto i $70 e le borse sono in calo, ma le principali banche d'Europa raggiungono un accordo per prestarsi denaro a vicenda. E anche di crisi finanziaria si parla al Consiglio europeo, ora in corso una conferenza stampa conclusiva nella quale Sarkozy sul clima dice: terremo conto delle obiezioni dell'Italia, ma gli obiettivi rimangono invariati. C'è stato un maxi sequestro a Napoli per latte e prodotti caseari alla melamina. In XL l'intervista al ministro delle politiche agricole Zaia. Il Parlamento non ce la fa a seduta comune per eleggere un giudice costituzionale, ma ci sono 115 assenti. Meglio McCain secondo gli analisti, meglio Obama secondo i telespettatori. Ecco l'esito dell'ultimo dibattito avvenuto questa notte tra i due candidati alla presidenza americana. In manette uno dei boss di San Luca in Calabria, nuovo colpo all'andrangheta con l'arresto di Antonio Pelle. Maxi assemblea alla Sapienza di Roma per protestare contro i tagli all'università. La liste dei grandi principi che nous aimerions che soit à la base d'un nouveau régime financier international. Ce qu'on appelle maintenant très quello che state sentendo è la voce di José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea. Come dicevamo dai titoli, è in corso una conferenza stampa del Consiglio europeo. Consiglio europeo che discute di due elementi principali, Simone. Sì, due temi centrali che sono la crisi finanziaria e la questione dell'ambiente, con le obiezioni dell'Italia al piano elaborato dalla Commissione. Enrico Brivio, che tra l'altro stai seguendo questa conferenza stampa, che cosa ci puoi dire su questi fronti? Ma dal punto di vista, diciamo, dei interventi finanziari si è confermato l'Europa a intervenire in modo coordinato e ad impegnarsi anche per aumentare la supervisione dei gruppi transnazionali e avviare anche una riflessione su una nuova governance mondiale dell'economia con un G8 che dovrebbe essere una specie di Bretton Woods, cioè di una riflessione sul futuro delle istituzioni mondiali. Mentre sul fronte del clima si è confermato l'impegno di arrivare a dicembre a chiudere il pacchetto su energia e clima per il dopo Kyoto, che si impegnerà a entro il 2020 a portare, diciamo, una riduzione delle emissioni di CO2 del 20%, a aumentare l'efficienza del 20%, l'efficienza energetica, e a aumentare l'uso delle rinnovabili anche al 20%. Si terrà però conto dei costi e dell'adattamento di questo piano all'industria, e questo anche su richiesta italiana, che ha molto premuto anche con la minaccia del veto, a tener conto di tutti i costi che questo comporterà per il sistema produttivo. E infatti quella che sentiamo in sottofondo è la voce del presidente francese Sarkozy, colui che appunto ha detto le cose più importanti per quanto riguarda l'aspetto del clima. Grazie Enrico Brivio, collegato con noi da Bruxelles. E ora passiamo però a parlare nel concreto della crisi finanziaria. La situazione dei mercati appaiono ancora in difficoltà, c'è qualche timore di recessione, timore confermato da quella che apparentemente è una buona notizia, ossia il petrolio che scende sotto i $70 al barile. Deborah Rosciani, buongiorno, che cosa sta succedendo? È successo che in realtà il Brent, cioè il greggio di riferimento europeo, è scivolato addirittura a $67 al barile, il livello più basso da 17 mesi, ma questa, che è ovviamente una buona notizia, che in altri momenti di mercato sarebbe stata accolta molto favorevolmente, oggi viene largamente trascurata dal mercato, che invece preferisce mantenere la sua situazione di ribasso, con Parigi meno 3%, Francoforte meno 1,69%, Londra meno 2,55% e anche Milano perde 2,5 punti. Quindi l'Europa per la seconda giornata consecutiva vive ancora una seduta all'insegna del ribasso. Preoccupano ovviamente le considerazioni economiche, la recessione recessione ormai è una cosa data praticamente per certa e potrebbe, secondo alcuni osservatori, essere ancora peggiore rispetto a quanto è stato previsto fino a questo momento, e su questa prospettiva naturalmente le borse scendono ancora, come è accaduto ieri a Wall Street e come è replicato pesantemente stamattina anche sui mercati asiatici. Grazie Deborah Rosciani, come sempre vi ricordiamo alle 13.30 l'appuntamento con Che Borsa Fa per avere sempre i dettagli su questa nuova giornata schizofrenica delle borse. Sì, tra l'altro ci sono da segnalare un altro paio di notizie che riguardano la crisi finanziaria. Innanzitutto che continua la discesa del tasso Euribor, quello che poi diventa riferimento per i mutui, al 5,09%. Nel frattempo, sul fronte appunto della tensione bancaria, si è avuta notizia che 8 fra le principali banche europee hanno raggiunto un accordo di fatto per sbloccare il mercato e si presteranno denaro a vicenda, mentre anche il governo svizzero starebbe procedendo verso il salvataggio di UBS. Ci sarebbe un aumento di capitale con l'ingresso, tra l'altro, del fondo sovrano del Qatar. Negli atenei di tutta Italia oggi si protesta ancora, una nuova giornata quindi di protesta contro i tagli previsti dal governo. In particolare, lo ricordiamo, la legge 133 approvata ad agosto stabilisce una diminuzione del 20% dei fondi statali per le università nel giro di 5 anni. Dal 2009 inoltre il sostanziale blocco delle assunzioni per personale docente amministrativo, insomma i vincitori di concorso potranno essere assunti solo se altre 5 persone andranno in pensione. E così per il 14 novembre CGIL e CISL e UIL hanno organizzato uno sciopero generale del settore. Ieri siamo andati a sentire che aria tira l'Università Statale di Milano. Oggi andiamo nel centro nevralgico di questa protesta, la Sapienza di Roma. Francesca Malaguti, buongiorno. Buongiorno, sta continuando qui nel campus della Sapienza la protesta degli studenti contro i tagli della legge 133 che limita il turnover dei docenti e introduce la possibilità per gli atenei di diventare fondazioni private, un tratto molto criticato dagli studenti. L'assemblea, a cui partecipano circa 4.000 studenti, è culminata nell'intervento del neorettore Luigi Frati, che sarà in carica dal 1 novembre, a cui si chiede l'immediato blocco della didattica. Sentiamo le parole di Frati, che è intervenuto dal palco aspettando il suo turno come tutti gli altri studenti. Chi dice Barone, forse figlio di un qualche professionista, io non lo sono stato, sono figlio di un operaio, quindi Barone te lo dici per te. Te lo dici per te. Barone te lo dici per te. Le cose serie sono queste, un percorso insieme con gli studenti per rivisitare insieme i temi che avete posto. Ritengo il problema del blocco della didattica protratto a tempo indeterminato una forma non produttiva di protesta e di riflessione sul tema. Il mio rettore, sentite, ha fatto questo intervento molto accorato e sentite anche le reazioni degli studenti presenti. È polemico verso la 133, ma vuole attendere la risposta del Senato accademico prima di avviare forme di protesta. E parlando con i giornalisti si è detto disponibile a fare guerra contro i tagli e i finanziamenti, ma non a difendere le sacche di inefficienza, come i corsi di laurea che ha detto servono solo ai professori e non agli studenti. Ora è nell'area l'occupazione della facoltà di lettere, per ora gli studenti stanno sfilando in corteo, vedremo cosa accadrà nel pomeriggio. Grazie Francesca Malaguti, naturalmente continueremo a seguire le proteste negli atenei italiani anche nei prossimi giorni. Ora vediamo a un aspetto politico. Dall'aula magna all'aula della Camera dei Deputati, dove sono riuniti deputati e senatori, seduta in realtà in questo momento sospesa. Che cosa sta succedendo? Si deve eleggere il giudice costituzionale, una cosa che ha creato molte polemiche politiche per il ritardo nei giorni scorsi, c'era stato anche un intervento del presidente Napolitano in questo senso. Sta seguendo la seduta Elisabetta Fiorito. Allora, Elisabetta. 115 parlamentari assenti, molto di più di quanto si aspettava per l'elezione a giudice della Corte Costituzionale qui a Montecitorio, come avete detto voi, nel Parlamento riunito in seduta comune. Nulla di fatto quindi, come già previsto ieri, perché manca l'accordo tra maggioranza e opposizione sul nome di Gaetano Pecorella, candidato PDL, contestato dall'opposizione perché indagato per favoreggiamento. I votanti sono stati 803, solo 32 risultano essere in missione, 445 voti per Pecorella con una maggioranza richiesta di 571. Il gruppo nel quale risulta il maggior numero di assenti è il Partito Democratico, ma intanto si cerca l'accordo. Per Antonello Soro, capogruppo PD alla Camera, la candidatura di Pecorella non era condivisa dalla stessa maggioranza. Anche se Soro non risponde su un'altra possibile candidatura che circola in queste ore qui a Montecitorio, quella del Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Donato Bruno. Anche sulla presidenza della Vigilanza Rai, Soro chiede a tutti una flessibilità e ragionevolezza. Il riferimento è ovviamente agli alleati dell'Italia dei Valori, che sostengono Luca Orlando, avversato dal Popolo della Libertà. Risponde Massimo Donadi, capogruppo IDV, non sarebbe dignitoso fare un altro nome rispetto ad Orlando. Per il Popolo della Libertà poi il candidato resta Pecorella. Soro, dicono i capigruppo, legge male i numeri che dimostrano coesione e presenza della maggioranza. Insomma, ancora l'accordo non c'è, ancora c'è molta confusione. A voi studio. Quindi questo è il tema di discussione nel Parlamento italiano, mentre nel mondo naturalmente si continua a discutere della crisi. E lo si fa anche a Francoforte. Sì, a Francoforte, dove è in corso la più importante fiera editoriale per il mercato europeo. Si parla di crisi, ma sembra stranamente che i librai, ma soprattutto gli editori, non abbiano questo problema. Stefano Salis. Sì, buongiorno a tutti. Ma non so se qui la crisi si senta o sia ancora un pochino alla finestra. È vero che gli affari si fanno come sempre qui a Francoforte, anche perché la Buchmesse è davvero l'appuntamento più importante a livello mondiale per la cessione di diritti d'autore. Dunque non so se i titoli e gli affari non si fanno più come una volta, ma direi di no. Forse c'è più attenzione, questa potrebbe essere una chiave per guardare a questa edizione, che è la numero 60 della Buchmesse. I titoli, dicevo, che hanno un argomento economico, forse ci sarà più un picco su questi libri che cercano di spiegare perché è successa la crisi che stiamo vivendo. Questo potrebbe essere anche un fattore importante quest'anno. Grazie Stefano Salis. Andiamo un attimo a Bruxelles. Le basi di questo patto, che potrete leggere nei dettagli, contengono esattamente una premessa. Il controllo dell'immigrazione si fa in due modi. Il primo modo ed è il ministro degli esteri italiano Franco Frattini e la diretta da Sky della conferenza stampa che si sta svolgendo dopo appunto il Consiglio europeo. In apertura abbiamo fatto sentire quella generale, questa è quella italiana. Ci sono Franco Frattini, Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti. Torneremo a parlarne sicuramente nel corso di XL. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. In Europa mediazione tra l'Italia e gli altri paesi sul clima, si deciderà all'unanimità a dicembre, dice Frattini, che aggiunge: accolte le nostre obiezioni. Gli obiettivi restano gli stessi, assicura però Sarkozy. Scendono ancora le borse sui timori di una recessione. A Tokyo si è registrato un vero e proprio tonfo con un meno 11%. In attesa di Wall Street, le piazze finanziarie europee perdono fra i 2 e i 3 punti percentuali. Intanto 8 fra le principali banche europee raggiungono un accordo per sbloccare il mercato. Si presteranno denaro a vicenda. A Napoli sono state sequestrate 10 tonnellate tra latte e prodotti caseari che contengono melamina. Tra poco l'intervista al ministro delle politiche agricole Zaia. Terzo e ultimo dibattito televisivo Obama-McCain nella notte italiana. Per la prima volta gli analisti si congratulano con il repubblicano McCain. Secondo loro è il vincitore, ma non la pensa così il pubblico, che premia ancora Obama. Riunito in seduta comune il Parlamento, ma mancano molti tra senatori e deputati, 115 in tutto. Va a vuoto la prima votazione per eleggere un giudice della Consulta, 445 voti per Gaetano Pecorella. È considerato il vero capo della cosca Pellevottari di San Luca in Calabria. Questa mattina in un bunker è stato trovato e arrestato Antonio Pelle. Fu suo l'ordine di uccidere Maria Strangio, fatto che provocò poi la strage di Duisburg. E torniamo un attimo a Bruxelles. Comunque, paese per paese, c'è fenomeno di finanziamento addizionale alla piccola e media impresa. Noi pensiamo che possa arrivare alle banche italiane dal 15 al 20% di questa somma, sul totale di 30-40. Sono Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti, prima, come avete sentito, che stanno parlando del pacchetto varato dal Consiglio europeo per fronteggiare la crisi. Si è parlato di aiuti all'industria, ebbene qualche accenno lo stiamo sentendo anche in diretta da questa conferenza stampa. Ma passiamo, Alessandra, ad un altro ministro. Ad un altro ministro, il ministro per le politiche agricole, Luca Zaia. E di oggi la notizia che in un capannone a Napoli sono stati trovati latte e prodotti caseari cinesi contaminati contaminati con melamina, la sostanza tossica che in Cina ha portato a settembre al ricovero di 13.000 bambini. Di questo, ma anche del caso della Galbani e della crisi dei produttori di parmigiano reggiano e grana padano, Valeria De Rosa ha parlato proprio con il ministro. Stiamo parlando di latte cinese in questo momento, che comunque la cui vendita è vietata sul territorio nazionale. Stiamo parlando di circa 10 quintali sequestrati, stiamo parlando di mozzarella cinese e di altre derrate alimentari che poi saranno tutte sottoposte a delle analisi. In questa fase non interessa dire e ringraziare il Corpo Forestale dello Stato, che dipende direttamente dal sottoscritto, quindi dal Ministro dell'Agricoltura, per quello che sta facendo a tutela della sicurezza alimentare. Comunque è un caso abbastanza inquietante anche sul nostro territorio nazionale. È inquietante, sì, però bisogna anche diffondere tranquillità e dire ai cittadini che la tutela della sicurezza alimentare passa anche attraverso buone abitudini alimentari. Comprare prodotti in stagione, prodotti del territorio, e quindi premiare la nostra agricoltura significa avere la certezza assoluta della qualità e della sicurezza alimentare. Ministro, per quanto riguarda invece il caso di formaggi scaduti e poi immessi nuovamente sul mercato, qual è il commento da parte sua, da parte del suo ministero? Guardi, il mio commento è che noi siamo qui e abbiamo ragione di esistere perché difendiamo la nostra agricoltura e il lavoro degli agricoltori seri. Quando sarà dimostrato che questa azione non corrispondente alla legge sarà una realtà, perché dovrà rispettare ovviamente il lavoro dei magistrati e degli inquirenti, penso che queste persone dovranno essere punite in maniera clamorosa. E allora parliamo invece di quelli che fanno seriamente il proprio lavoro. Comprerete forme di parmigiano, forme di grana per sostenere un settore che ha delle difficoltà, che sostiene di avere dei costi all'origine che sono pari a quelli poi di vendita, almeno all'ingrosso. Però il settore lamenta che questa è una misura temporanea. Che cosa si può fare per sostenere questo che è un fiore all'occhiello, uno dei tanti fiori all'occhiello per quanto riguarda il Made in Italy? Ma veda, noi innanzitutto ritiriamo queste forme grazie a un negoziato che io ho gestito in Unione Europea, che ci dà modo di investire queste risorse per questa azione. E facciamo una buona azione perché diamo agli indigenti questo prodotto di qualità per l'alimentazione. Abbiamo in animo di fare delle promozioni a livello internazionale e dobbiamo cercare di fare in modo che il prezzo sia sostenuto sui mercati. E oltre a questo noi non riusciamo a fare null'altro, nel senso che non è che possiamo obbligare il consumatore a pagare il 30-40% in più il formaggio se non lo vuole comprare. Quindi ci stiamo impegnando fino in fondo per fare delle azioni che siano ragionevoli, che abbiano un fondamento di management serio dietro ad ogni pianificazione che facciamo. Quindi promozione nella grande distribuzione internazionale tramite Buonitalia, il ritiro dal mercato e poi un tavolo con la grande distribuzione in Italia, chiedendo tra le tante cose di evitare di avere sempre il parmigiano reggiano o il grana padano come prodotto civetta nei supermercati. Senta Ministro, però quando poi ci rechiamo a comprare il parmigiano, diciamo che il prezzo rispetto a quello poi riportato dai giornali, quindi 7-8 euro per la produzione e per la vendita all'ingrosso, è almeno il doppio, perché il parmigiano reggiano al chilo viene oltre i 15 euro. Quindi c'è ancora e c'è anche in questo caso un problema evidentemente di filiera. Beh, questo è un problema delle filiere, è un problema giustamente dei tanti passaggi di mano, è un problema che poi verrà affrontato. C'è anche da dire che comunque l'intera filiera poi con ogni passaggio va a caricare la formazione del prezzo finale, questa è la verità. E quindi questo ricarico, a me sono concesso che sia così alto poi in questa fase, lo si giustifica con questi ragionamenti. Ministro, la giornata mondiale dell'alimentazione, la FAO ha lanciato un allarme molto forte perché questa crisi che stanno vivendo i mercati e che vivrà anche l'economia reale poi si rifletterà in misura ancora maggiore sui più poveri. Che cosa e quali sono gli strumenti, le misure allo studio per intervenire e per far sì che non siano solo delle misure una tantum, come chiede appunto la FAO? Beh, veda, noi innanzitutto condividiamo la lettura che dà il direttore generale della FAO Diouf, che dice che per sfamare i 6 miliardi di cittadini nel mondo bisognerebbe raddoppiare la produzione agricola. Ricordiamo che ci sono 850 milioni di cittadini che soffrono la fame nel mondo e che ogni anno muoiono 3 milioni di cittadini per fame, molti dei quali sono bambini. E in tutto questo non possiamo dimenticare che a livello nazionale abbiamo circa 7 milioni di cittadini che vivono con meno di 600 euro al mese. E noi siamo convinti che bisogna investire nella produzione agricola e cercando ovviamente che questa produzione agricola si trasformi poi in derrate alimentari per tutti. In quanto autorevole esponente della Lega, Ministro, le vorrei chiedere che cosa pensa a proposito del richiamo fatto non solo poi da esponenti della Lega ma anche da altri esponenti della stessa maggioranza sui decreti per stanziare fondi per Roma e per Catania all'interno poi di un più ampio progetto che è quello del federalismo. Beh, lo dice bene lei, di un progetto, di un più ampio progetto che è quello del federalismo. È la prima volta che si giunge a un progetto così organico e in maniera così veloce. Direi che se ti indicano la luna, se ti fermi a guardare il dito, non vedi mai la luna. Noi vogliamo vedere la luna, che per noi significa federalismo fiscale e ovviamente anche l'autonomia dei nostri territori. Quindi lei mi sta dicendo che si può anche accettare il fatto che ci siano degli stanziamenti specifici per Catania e per Roma per supplire a delle situazioni locali? La volontà di chiudere questo progetto federalista, senza condivisione non si riuscirebbe mai a chiudere, e questi sono dei passaggi obbligati ovviamente sui quali si è ragionato e dobbiamo sicuramente investire. Volevo sapere un suo commento anche in merito al blocco da parte di Bruxelles, in merito alle espulsioni dei clandestini e quindi di conseguenza anche al fatto che la clandestinità non sarà un reato. Beh, questa è una partita seguita direttamente dal Ministro degli Interni. Io per principio non mi occupo mai degli affari dei miei colleghi, anche perché c'è un rispetto di fondo che mi porta ad operare così. Dico solo che noi abbiamo discusso molto su questo tema, è un tema sul quale sicuramente torneremo a ragionare. L'ultima domanda gliela volevo fare sulle classi separate, Ministro, anche perché lei proviene da una zona in cui l'afflusso di stranieri è molto alto. Vorrei capire qual è il suo giudizio rispetto a questo provvedimento poi da voi presentato. È totalmente condiviso, non c'è nulla di strano, accade già in molti stati europei, penso alla Francia e altri stati. Non si tratta di ghettizzazione, ma si tratta di classi dove avviene per un certo periodo la compensazione e il recupero di questo svantaggio conoscitivo rispetto alla lingua. Non ritiene proprio che questo possa invece acuire in qualche modo un distacco da quella che è la società in cui si ritrovano a vivere questi ragazzi? Io penso sinceramente di no. Ci sottoponiamo tutti a queste selezioni. Chi fa dei corsi sa benissimo che comunque i livelli vengono sempre valutati. In questo caso i bambini sono bambini che comunque giocheranno assieme nel cortile di quella scuola, che avranno sicuramente relazioni e non si faranno la loro totale carriera di studi da soli nelle classi per immigrati, ma servirà solo per avviarli a uno studio che sia uniforme assieme agli altri bambini. E questo era il ministro per le politiche agricole Luca Zaia, intervistato da Valeria De Rosa. Oggi, come avete anche sentito nell'intervista, si celebra la giornata mondiale dell'alimentazione. In un messaggio indirizzato al direttore generale della FAO, il Papa ha scritto: basta con questa speculazione sfrenata che tocca i meccanismi dei prezzi e dei consumi e basta anche agli egoismi degli stati. Una giornata dell'alimentazione dedicata all'impatto dei cambiamenti climatici sulla sicurezza alimentare. Di sicurezza alimentare abbiamo parlato appunto poco fa col ministro Zaia. Ora invece parliamo di ambiente, Simone. Ma ne parliamo con una storia che arriva dai dintorni di Varese, o meglio da Malpensa. Più inquinato di un casello autostradale. Questo è il risultato delle analisi sul bosco secolare, patrimonio dell'UNESCO, vicino all'aeroporto. E così SEA e il Ministero dei Trasporti sono stati condannati a risarcire il danno. Il Tribunale Civile di Milano ha deciso 5 milioni di euro, tanto vale il danno inflitto dall'inquinamento degli aeroplani alla proprietà della tenuta Cascina Treppini, tra Somma Lombardo e Vizzola Ticino, comprendente un'area che l'UNESCO considera, ma forse ormai dovremmo dire considerava, riserva della biosfera. A certificare il disastro fu 2 anni fa la perizia di Pierluigi Genevini, ordinario di chimica del suolo dell'Università di Milano, che con la sua squadra fece prelievi, confrontò foto satellitari e inventò perfino delle trappole per lo smog, delle griglie con dentro del materiale assorbente. Alcune vennero messe al suolo, altre nel bosco, altre ancora accanto al casello stradale di Melegnano, dove passano circa 100.000 veicoli al giorno. Quale che fosse il sistema di approccio sperimentale, risultava comunque un nesso fra il traffico aeroportuale e la realtà dello scalo di Malpensa e i danni vegetali. Ma è vero che per l'inquinamento gran parte delle piante di quel bosco ormai dovrebbero essere abbattute? Ma sì, perché se c'è un agente inquinante, che poi sia idrocarburo piuttosto che xifilo, non cambia niente, la pianta non riesce a formare le nuove foglie. Non c'è modo, insomma, di farla guarire? No, perché l'unico sistema è quello di togliere l'agente di disturbo. Ma dal termine della perizia ad oggi Malpensa è sempre rimasta attiva e quindi la situazione non può essere migliorata. Nel frattempo c'è chi ha trovato il modo di utilizzare le trappole per lo smog. Molti le avevano, come dire, incamerate abusivamente e le usavano per fare le grigliate. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13.35, GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Gli aiuti di Stato ora sono un imperativo categorico, lo dice Berlusconi al termine del Consiglio Europeo di Bruxelles. Il Presidente del Consiglio annuncia l'Italia andrà tra il 15 e il 20% dei finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti per le Infrastrutture. Scendono ancora le borse sui timori di una recessione. Tokyo questa mattina ha chiuso con un meno 11%. In attesa di Wall Street, le piazze europee perdono fra i 2 e i 3 punti percentuali. A Bruxelles, mediazione tra l'Italia e gli altri paesi sul clima. Si deciderà all'unanimità a dicembre, dice Frattini, che aggiunge accolte le nostre obiezioni. Gli obiettivi restano gli stessi, assicura però Sarkozy. A Napoli sono state sequestrate 10 tonnellate, fra latte e prodotti caseari, che contengono la sostanza tossica melamina. E a XL il ministro Zaia ha detto che questi prodotti non erano comunque destinati al commercio italiano, non possono essere commercializzati nel nostro paese. Terzo e ultimo dibattito Obama-McCain ieri notte. Per la prima volta gli analisti si congratulano con il repubblicano. Secondo loro è il vincitore, ma non la pensa così il pubblico, che premia ancora Obama. Riunito in seduta comune il Parlamento, ma mancano molti fra senatori e deputati, 115 in tutto. Va a vuoto dunque la prima votazione per eleggere un giudice della Consulta. Apriamo questa parte tornando a Bruxelles per la conferenza stampa di Silvio Berlusconi, Giulio Tremonti e Franco Frattini dopo il Consiglio europeo, ma nella parte, diciamo così, dedicata alla crisi finanziaria. Di crisi finanziaria naturalmente ha parlato il nostro ministro dell'economia Giulio Tremonti, sentiamolo. Certo, è cambiato il mondo. Lei ha chiesto al Presidente le politiche industriali. Certo, fino a qualche ora fa era vietato tutto. È cambiato tutto. E devo dire, se uno va a vedere il Trattato di Roma, non è mica come è stato interpretato, certo, negli ultimi anni. Nel Trattato di Roma c'era ampio spazio per le politiche, certo, industriali. Certo. È stato il sopravvento di una, come dire, di una cultura un po' diversa da quella originaria del trattato, che ha spostato tutto sul cosiddetto mercato, che poi non era affatto mercato ma qualcos'altro, ovvero mercato più alto. E a proposito di politiche industriali, Silvio Berlusconi dice ora l'aiuto di Stato è diventato un imperativo categorico, ma ha parlato appunto anche di infrastrutture e di aiuti alle piccole e medie imprese. Sentiamo le sue parole. Decisione del Consiglio europeo, va segnalato il fatto del sostegno, l'apprezzamento e anche l'invito alla Banca Europea di Investimenti a dare supporto per la realizzazione di infrastrutture. E infine la Banca Europea aveva già destinato 30 miliardi di euro per il supporto alle piccole e medie imprese. Si è aggiunto anche il fatto, come raccomandazione, che possa dare copertura e garanzia a elargizioni di crediti da parte delle banche su particolari progetti portati avanti dalle singole imprese. Noi continuiamo a parlare di crisi economico-finanziaria. Ogni giorno in questo spazio, quello dedicato all'approfondimento economico, stiamo un po' guardando gli effetti collaterali di questa crisi in vari settori. Simone, oggi di cosa parliamo? Sì, oggi parliamo di mercato pubblicitario. Maria Luisa Pezzali ha intervistato Lorenzo Sassoli De Bianchi, presidente dell'UPA, Utenti Pubblicità Associati. È certamente una fase di preoccupazione e di incertezza. Abbiamo una situazione di calo dei consumi che è iniziata prima della crisi finanziaria che inevitabilmente peggiorerà la situazione. Quindi c'è molta attenzione e soprattutto molta incertezza. Proprio nei momenti di crisi la pubblicità spesso ha fatto da volano. Ora? È giusto quello che lei dice. Io penso che non dobbiamo abbatterci, dobbiamo trovare opportunità nelle difficoltà, Non mi pare che ci siano segnali di tipo recessivo nella pubblicità, nel senso che le aziende hanno capito benissimo che la pubblicità è un elemento strutturale e che quindi rinunciare alla pubblicità significa poi entrare in una spirale negativa da cui difficilmente si esce. Il 2007 si è chiuso con un più 3,7% per il mercato della comunicazione. Quali le previsioni sul 2008? Noi prevediamo ancora un segno positivo per il 2008, ovviamente all'ordo dell'inflazione, quindi noi prevediamo un 1,6% dell'intero comparto della comunicazione in crescita, perché vi sono alcuni mezzi che sono poi quelli che fanno la parte del leone che stanno tenendo abbastanza bene, mi riferisco alla televisione, così come la radio che sta andando molto bene e internet che continua la sua crescita. Altri settori come quello della stampa purtroppo stanno soffrendo in questo momento, ma la somma dà ancora un dato positivo. Avete sentito adesso parlare della pubblicità in televisione, ma nella nota italiana c'è stato un evento televisivo importantissimo a livello internazionale che è soprattutto però un evento politico. Sì, parliamo dell'ultimo dibattito preelettorale tra Barack Obama e John McCain. Ebbene, sentiamo com'è andata. Good evening and welcome to the third and last presidential debate. Il terzo dibattito presidenziale Obama-McCain passerà alla storia come il dibattito di Joe l'idraulico. A renderlo una celebrità è stato il candidato repubblicano che l'ha nominato portabandiera della sua campagna anti-Obama. Joe the plumber. Il terzo confronto scontro tra i due aspiranti alla Casa Bianca si è risolto in maniera più vivace e meno soporifera rispetto ai primi due. McCain, in abissale svantaggio nei sondaggi, ha attaccato Obama sull'economia. In particolare ha preso di mira i suoi piani di cancellazione degli sgravi fiscali ai contribuenti che dichiarano oltre $250,000 l'anno, proprio il tema sollevato pubblicamente dall'idraulico e piccolo imprenditore di nome Joe. I want to cut taxes. Barack Obama ha contrattaccato ricordando la sua volontà di abbassare le tasse al 95% degli americani e criticando l'assenza nel maxi piano di salvataggio preparato dall'amministrazione Bush di un progetto per la classe media. Senator Obama, I am not President Bush. È qui che John McCain ha preso la palla al balzo e ha risposto: io non sono Bush, se volevi candidarti con contro di lui dovevi farlo 4 anni fa. Basterà il guizzo? Difficile dirlo. McCain ha chiaramente mancato il colpo del KO necessario a ribaltare una situazione disastrosa nei sondaggi, nel bel mezzo della crisi economica, e dunque Obama ad avanzare verso una storica elezione a presidente degli Stati Uniti. E per quanto possono valere commenti e sondaggi a caldo, il termometro del pubblico dice per la terza volta su 3 Obama, il senatore afroamericano, ha prevalso sia nei rilevamenti CNN che in quelli CBS, sfondando sempre quota 50% dei consensi. McCain ha vinto solo nelle opinioni degli esperti e dei commentatori che l'hanno giudicato più convincente rispetto all'avversario, ma è una vittoria che ai più appare di Pirro. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore. E vi ricordiamo che potete ascoltare i brani del dibattito fra i due candidati alla Casa Bianca sul nostro sito www.radio24.it. Parliamo di un secolo di storia in celluloide. Adesso è stato creato un nuovo archivio molto particolare. Raccontare il Novecento per immagini è possibile in Italia grazie a 2 archivi sterminati. C'è l'archivio storico della RAI che ha 325.000 ore di filmati. C'è l'archivio Luce con 12.000 cinegiornali, 6.000 documentari e 8.000 rulli di materiale di repertorio in gran parte inedito. Le due monumentali raccolte ora si accordano per costituire il più grande giacimento culturale visivo del secolo breve. Resteranno fisicamente separati, ma documentaristi, studiosi, giornalisti potranno accedere con maggior facilità a un unico catalogo. Carlo Nardello, amministratore delegato Rai Trade. Di fatto ci sarà un accesso più semplice per favorire la divulgazione della storia del paese. Ne abbiamo bisogno ed è un asset importante per noi, non solamente in Italia ma anche nel mondo. E stanno nascendo nuove produzioni, come racconta Luciano Sovena, presidente dell'Istituto Luce. Copriamo comunque interamente, chiaramente da quando esistono i mezzi di comunicazione, quindi intendo primi 900, fino ai giorni nostri, il che è un'operazione unica. Stanno arrivando delle proposte le più svariate. Quella che mi interessa particolarmente è una storia degli attori, perché noi Anna Magnani, Fabrizi, Sordi e chi più ne ha più ne mette ne abbiamo tantissime. È unito a quello che alla RAI, voi potete capire quello che viene fuori, che fino adesso non è mai stata fatta, e credo che questo abbia anche un riscontro notevole di pubblico. Insieme all'archivio audiovisivo verrà portata avanti un'opera di digitalizzazione del materiale fotografico. Avverrà in Sicilia sfruttando i fondi strutturali e investendo in formazione di giovani professionisti. Il presidente della regione, Raffaele Lombardo. talvolta abbiamo formato figure professionali che non trovano lavoro, che non trovano sbocco nei mercati. Io credo che una figura specializzata nell'archiviazione, nella digitalizzazione di queste immagini, una figura siffatta acquisisce una professionalità che per lui costituisce un valore aggiunto e gli consente di poter lavorare per sempre. Marta Cagnola, GR24 Il Sole 24 Ore, Cannes. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Gli aiuti di Stato ora sono un imperativo categorico, lo dice Berlusconi al termine del Consiglio europeo di Bruxelles. Il Presidente del Consiglio annuncia dalla Banca europea degli investimenti aiuti alle piccole e medie imprese. Scendono ancora le borse sui timori di una recessione. Tokyo ha chiuso con un meno 11% in attesa di Wall Street. Le piazze europee perdono fra i 2 e i 3 punti percentuali. Mediazione tra l'Italia e gli altri paesi europei sul clima si deciderà all'unanimità a dicembre, dice Frattini, che aggiunge: accolte le nostre obiezioni. Gli obiettivi restano gli stessi, assicura però Sarkozy. A Napoli questa mattina sequestrate 10 tonnellate fra latte e prodotti caseari che contengono la sostanza tossica melamina. Provengono dalla Cina. Il ministro Zaia di XL non avrebbero potuto essere venduti sul mercato italiano. Terzo e ultimo dibattito Obama-McCain ieri notte. Per la prima volta gli analisti si congratulano con il repubblicano che secondo loro è il vincitore. Ma non la pensa così il pubblico, che premia ancora Obama. Fumata era al Parlamento riunito in seduta comune che dovrebbe eleggere un giudice della Consulta. Mancano molti fra senatori e deputati, 115 in tutto. Si fa un gran parlare in queste ore, e anche giustamente, dell'ipotesi passata con una mozione in Parlamento ieri l'altro da parte della Lega di classi separate per gli figli di immigrati, delle classi ponte che servirebbero a far sì che i bambini imparino bene l'italiano prima di entrare in una classe normale. Una storia invece che riguarda le classi miste, una storia diversa, arriva da Novara. Il protagonista di questa vicenda è il sindaco leghista, che si chiama Massimo Giordano. Che cosa ha inventato? Ha praticamente incentivato le famiglie degli immigrati a iscrivere i figli in scuole più lontane ma a basso tasso di presenza straniera, dando lo scuolabus gratis. Sì, si potrebbe pensare che è un sindaco di centrosinistra, invece è proprio leghista ed è conterraneo di Roberto Cota, il firmatario della mozione sulle classi ponte, appunto, voluta dal Carroccio. Sentiamo il sindaco di Novara, appunto Giordano, al microfono di Valentina Furlanetto. A Novara non abbiamo un problema di numero di extracomunitari, perché siamo sulla media nazionale, 7%. Noi abbiamo un problema che sono concentrati in due quartieri, quindi abbiamo in questi quartieri, in alcune scuole, una percentuale che secondo noi è troppo alta. In una scuola elementare si è arrivati all'80%. Allora, noi abbiamo cercato di costruire una manovra d'emergenza adesso, che è quella di convincere le famiglie a spostarsi e quindi di far scendere la percentuale degli extracomunitari. Adesso siamo al 50%, se riusciamo la abbassiamo ancora un po'. Voi siete scesi al 50% come? Convincendo le famiglie ad andare in altre scuole, aiutandole, dicendo che gli avremmo messo a disposizione ad esempio il trasporto pubblico per i ragazzi. Però per l'anno prossimo vogliamo costruire una manovra più strutturale e meno d'emergenza, di incentivare gli italiani ad andare in quelle scuole lì. In quelle scuole dove c'è la forte presenza di stranieri. Perfetto, magari facendo delle agevolazioni sui costi delle mense, dei pasti, eccetera, perché riteniamo che non vada contro l'integrazione avere una eccessiva presenza di extracomunitari. Secondo noi è un processo che va contro l'integrazione. Quindi lei non vede favorevolmente classi di soli stranieri? Ma allora, quasi, però le classi ponte proposte dalla Lega alla Camera sono in perfetta sintonia con noi, tant'è che Cota, che è l'estensore della mozione, è uno che lavora, è di Novara, il nostro amico, oltre ad essere il nostro segretario, lavora con noi e ci confrontiamo quotidianamente. Le classi ponte sono quelle che devono durare il meno possibile, devono permettere al bimbo extracomunitario di imparare l'italiano, quindi di essere inserito in una classe quando sa l'italiano. È considerato il vero capo della cosca Pelle Vottari di San Luca in Calabria. Questa mattina in un bunker è stato trovato e arrestato Antonio Pelle. Fu suo l'ordine di uccidere Maria Strangio, fatto che poi provocò la ormai nota, tristemente nota, strage di Duisburg, quando nella città tedesca a Ferragosto del 2007 furono uccise 6 persone. Notizia di questa mattina: Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo, Vito, condannato per mafia, morto nel 2002, dovrà pagare al fisco 42 milioni di euro. Attanto ammotterebbe l'evasione fiscale tra il 2002 e il 2004, accertata dalla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno applicato una norma che prevede la tassazione dei proventi derivati da attività illecite. Le somme proverrebbero dalla gestione e dal riciclaggio da parte di prestanome del patrimonio accumulato dall'ex sindaco di Palermo. Sarebbe contenuto non in una lettera trasmessa via fax, ma in una delle 5 missive in busta chiusa inviate fra agosto e settembre dal carcere milanese di Opera ad uno dei suoi avvocati, il minaccioso avvertimento di Francesco Schiavone, detto Sandokan, nei confronti dello scrittore Roberto Saviano. L'autore di Gomorra, che da 2 anni è sotto scorta per le minacce dei casalesi, non è purtroppo l'unico ad avere una vita blindata. Il commento di Daniele Biacchessi. Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, non è l'unico cittadino italiano nel mirino dei boss criminali. Nel nostro paese vivono sotto scorta o subiscono pesanti minacce cronisti giudiziari, scrittori, imprenditori, magistrati. Ad esempio c'è Lirio Abbate dell'ANSA e il nostro collega del Sole 24 Ore Nino Amadore. Ci sono tanti giovani cronisti di Nera, direttori di periodici in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia che vivono nella paura di attentati. La strategia delle cosche mafiose è chiara e viene da lontano. Prima i boss minacciano in modo pubblico e mediatico, come nel caso di Saviano. Poi passano al tentativo di delegittimazione, come quello subito da Lirio Abbate. Infine si arriva alle maniere forti. Ma la società politica e civile non può restare fuori dalla mischia, perché non è in corso una guerra privata tra singoli cittadini e le mafie. I modelli positivi esistono. Confindustria a Sicilia, che espelle dall'organizzazione gli imprenditori che pagano il pizzo, e migliaia di giovani impegnati in associazioni del volontariato che difendono i valori della legalità nel sud. In passato, nella solitudine, la mafia ha colpito De Mauro, Alfano, Fava, Impastato, l'imprenditore Grassi, magistrati e giudici Falcone, Borsellino, Livatino, Chinnici, generali dei carabinieri come dalla Chiesa, poliziotti, carabinieri, singoli cittadini. Il nostro dovere è dunque non lasciar solo chi combatte la mafia, perché è una battaglia che riguarda ormai tutti. Studiosi provenienti da vari paesi, ma anche scrittori e musicisti con una passione in comune: il passato. Da oggi in Piemonte il Festival Storia. Il dopoguerra, visto come una fase sempre difficile e spesso come la continuazione sotto altro nome di una guerra dichiarata finita e in genere vinta. È questo il tema centrale di discussione della 4ª edizione di Festival Storia, in programma fino al 19 ottobre, quest'anno non soltanto a Saluzzo e Savigliano nel Cuneese, ma anche a Torino, a Palazzo Cisterna. Le guerre spesso continuano, magari sotto forma di conflitti sociali o di lunghe guerriglie, o aprono la via alle vendette dei vincitori sui vinti. Un tragitto difficile e accidentato talvolta, quello che dalla guerra conduce alla pace, se pace si può chiamare. Angelo Dorsi, ideatore e direttore di Festival Storia. Negli ultimi 20 anni, grosso modo a partire dal cosiddetto crollo del muro, cioè il biennio 1989-1991, siamo entrati in un'epoca di guerra permanente, di guerra infinita. Noi sappiamo quando le guerre cominciano, ma non sappiamo quando finiscono, perché in realtà non finiscono mai. È un tema che ci spinge proprio a una riflessione drammatica sull'attualità. Un festival che, come hanno già dimostrato le passate edizioni, rivela quanto sia sempre più forte il bisogno di storia da parte del pubblico. Finalmente comincia a esserci un bisogno diffuso e soffuso di storia. Io teorizzo da tempo la storia come un diritto universale dei cittadini e delle cittadine. Noi abbiamo questo diritto che troppo spesso ci viene negato, perché solo attraverso la storia si può passare da una condizione di cittadini passivi, quali siamo noi troppo spesso, a una condizione invece di cittadinanza attiva. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Gli aiuti di Stato ora sono un imperativo categorico, lo dice Berlusconi al termine del Consiglio europeo. Da Bruxelles aperture all'Italia sulla questione del clima. Ancora paura di recessione, petrolio sotto i 70 dollari e borse in calo. In questo momento l'S&P MIB perde 3 punti percentuali, il MIPTEL il 2,77%, Francoforte altrettanto, Parigi oltre il 4%, ma le principali banche d'Europa raggiungono un accordo per prestarsi denaro a vicenda. Latte alla melamina sequestrato a Napoli, in un mese sequestrate 30 tonnellate di cibo cinese. Il Parlamento non ce la fa, seduta comune per eleggere un giudice costituzionale, ma ci sono 115 assenti. Meglio McCain secondo gli analisti, meglio Obama secondo i telespettatori, ecco l'esito dell'ultimo dibattito avvenuto nella notte italiana fra i due candidati alla presidenza americana. In manette uno dei boss di San Luca, nuovo colpo all'andrangheta con l'arresto di Antonio Pelle. Maxi assemblea all'università La Sapienza di Roma per protestare contro i tagli. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Maria Piera Ceci, con in regia Peter Bescapè. Il prossimo GR alle 15, Extra Large torna domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.